ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Eccoci con Nessuna è perfetta. Allora, l'avete bevuto il caffè della mattina con me? Se non l'avete fatto, vi siete persi una bellissima conversazione con il regista Pupi Avati, che è sempre stimolante, è stato l'ospite del Caffè della Domenica di questa settimana, senza politici, perché come sapete oggi è giornata elettorale. E noi qui invece a Nessuna è perfetta, come ogni domenica, parliamo dei temi di attualità che riguardano le donne, che riguardano il lavoro, e anche con una incursione simpatica, come facciamo ogni domenica, con le nostre Sunday Girls, che questa domenica saranno una Sunday Girl e un Sunday Boy, perché c'è sempre anche bisogno di un sorriso. Qualche sorriso mi è arrivato questa settimana con i vostri messaggi vocali, quelli che ci mandate, ve lo ricordo, all'828 12 12, e cominciamo con sentirne qualcuno, sempre riferito alla puntata di domenica scorsa. Buongiorno Maria, dopo la pausa estiva ho ripreso regolarmente a lavorare e sono in smart working, e a causa degli spazi, diciamo, limitati in ufficio mi alterno con colleghi e colleghe. Alcuni giorni vado in sede, altri lavoro da casa. Posso dirle che questa situazione non mi dispiace affatto? Buona domenica! E io posso dirti che condivido il tuo punto di vista, nel senso che l'alternanza tra lavoro da casa e lavoro in azienda, in ufficio, per quanti possono farlo, perché ci sono lavori che non si possono fare da casa ovviamente, mi pare una soluzione che contempla insieme dei risparmi aziendali, perché è chiaro che si consumano meno luce, meno gas, si consuma meno spazio anche, quindi le aziende hanno dei vantaggi, chi lavora da casa può gestire meglio il tempo. Qualcuno dice sì, ma talvolta così si lavora anche il sabato. Ci sono delle cose da compensare, però in compenso magari appunto uno non passa due ore sui mezzi pubblici, non si arrabbia nel traffico al mattino partendo male nella giornata perché appunto comincia da casa. E poi c'è l'aspetto invece del ritorno in ufficio, ritorno in azienda, che è importantissimo, determinante, perché siamo esseri sociali e abbiamo bisogno di un confronto con le altre persone con le quali lavoriamo. Quindi sai che la penso proprio come te, ecco. E d'altra parte mi sembra che in quasi tutti i paesi questa sia la scelta del momento, rinviare un ritorno in massa al lavoro di prima, un rinvio che in certi casi sa proprio di scelta definitiva. Ci sono tante aziende che non torneranno al sistema di prima. Vedo peraltro che in Gran Bretagna stanno, per motivi seri, perché c'è un aumento del Covid, stanno tornando sui loro passi. Il premier Boris Johnson aveva spinto perché la gente tornasse negli uffici, perché c'è la city deserta, perché Londra e il centro di Londra è totalmente lontano dai picchi di presenze che c'erano ovviamente prima del Covid, ma la recrudescenza del virus ha fatto sì che ci abbia ripensato. Anzi, in alcune aree dell'Inghilterra, lo sapete, hanno ristabilito quasi dei principi di semi-lockdown. Speriamo che non debbano farlo in maniera estensiva in tutto il paese. Oh, c'è un altro messaggio che vorrei sentire insieme a voi, che è arrivato sempre all'828 12 12, dove vi ricordo potete lasciare i vostri punti di vista, le vostre critiche, nessuna è perfetta, e i vostri suggerimenti per temi che possiamo affrontare insieme. Ciao Maria, dunque finalmente è ricominciata la scuola, la cosa più bella è vedere i miei figli felici, sereni, comunque di aver ripreso una normalità che mancava ormai da troppo tempo e che cominciava a essere un po' pesante e preoccupante. Ora speriamo che tutto vada bene e che l'anno scolastico possa proseguire senza altre interruzioni, senza altri problemi e che tutto possa appunto finire anche normalmente. Grazie e buona giornata. Allora, sono andata a fare due chiacchiere con Olivia, che come sapete, perché ogni tanto ve ne parlo, è una dei miei due nipoti, figli di mio fratello. Olivia è tornata a scuola con i suoi compagni, lei ha 15 anni, frequenta un liceo romano ed era molto molto contenta di ritornare a una normalità, anche se consapevole della necessità di osservare molte precauzioni. Credo che tornare a scuola sia non solo indispensabile sotto un profilo di formazione, perché è diverso quando l'insegnante ti vede, ti spiega le cose guardandoti in faccia, ti può interrogare, tu puoi porgli una domanda, ma è anche importante perché insomma siamo, lo ripeto, esseri umani bisognosi di socializzazione e la scuola è per tanti tanti ragazzi il momento in cui magari possono confidarsi, possono ritrovare gli amici che poi magari abitano in quartieri lontani. Insomma, lo sapete, ve l'ho scandito mille volte anche nei mesi scorsi, credo che il ritorno a scuola sia essenziale. Allora, 828 12 12, nostro numero per la casella vocale dove potete lasciare i vostri messaggi. E prima di dare il benvenuto ai nostri ospiti di questa domenica, volevo commentare con voi una notizia che ho letto sul quotidiano La Repubblica. Qualche giorno fa l'ho letta perché venerdì 18 settembre, quindi due giorni fa, in Piazza Bra a Verona è cominciata una risposta di un gruppo di femministe promossa da Non Una di Meno, la risposta al Festival della Bellezza di Verona, quell'evento che ha fatto molto discutere perché il suo programma aveva un panel composto soltanto da relatori uomini. E quindi Erosif è stata la risposta veronese di alcune importanti scrittrici, artiste, intellettuali italiane che hanno parlato di Eros, di consenso, di miti della bellezza e di importanza anche della bruttezza come risposta a un festival che aveva solo signori e signorini. Ecco, ma torniamo a quello che è il cuore, no, del nostro programma. Nessuna è perfetta, è nata e continua ad occuparsi di donne e lavoro. E io voglio cominciare questa parte di Nessuna è perfetta citando la fotografia che è stata scattata da Union Camere a 1.340.000 imprese guidate da donne. Fotografia che emerge appunto dal quarto rapporto sull'imprenditoria femminile. Le imprese sono il 22% del totale, le imprese guidate da donne, e negli ultimi 5 anni, questa è la buona notizia, sono cresciute a un ritmo molto più intenso di quelle guidate da uomini. Voi direte, beh, bella forza, ce n'erano così poche. Vero, però è un bel segnale. Cresciute del più 2,9% le imprese guidate da donne contro un più 0,3% di quelle guidate da uomini. Dunque, diciamo che le imprese guidate da imprenditrici hanno contribuito al 75% dell'incremento complessivo di tutte le imprese in Italia. Non male, no? Quindi applausi a queste imprenditrici. Dove sono concentrate queste imprese? Diciamo nei settori più tradizionali, mentre quelle nuove guidate da uomini si insediano in settori più innovativi, e anche questo è un tema che deve far riflettere, motivo per cui spesso qui insistiamo, pensando a voi genitori o nonni che ci ascoltate, fate studiare le materie scientifiche alle vostre ragazze, mandatele a fare delle prove. Non è che la matematica o le scienze non siano adatte a una ragazzina, tutt'altro. E poi, quando si tratterà di trovare un lavoro tra 5 o 7 anni, sarà molto più facile per loro se avranno scelto un percorso scientifico. Comunque, tornando ai casi nostri e ai dati forniti da Union Camere, c'è anche un aspetto che deve far riflettere, ed è quello legato agli effetti del Covid. Perché? Perché dopo il Covid, cioè tra aprile e giugno, le iscrizioni di nuove aziende guidate da donne sono molto diminuite, circa 10.000 in meno rispetto allo stesso trimestre del 2019, ed è un calo superiore a quello che hanno fatto registrare le nuove imprese guidate da uomini. Cioè, hanno avuto più coraggio gli uomini, si sono buttati in nuove imprese, mentre le donne, tradizionalmente più prudenti, hanno preso tempo, oppure semplicemente gli sono mancati i fondi. Sarà così? Lo chiederemo a una imprenditrice coraggiosa, invece, che sarà nostra ospite tra poco. Nessuna è perfetta. È il momento della nostra Sunday Girl, che questa settimana ha anche un Sunday Boy. A proposito di ripartenze, di lavoro e di paese, do il benvenuto e la buona domenica a Miriam Galanti e Dario Vergassola, che dal 15 settembre su Sky Arte ci accompagnano alla scoperta dei primati italiani. C'è un titolo che mi piace moltissimo: Sei in un paese meraviglioso. E dunque, in queste settimane dove siete stati? Buongiorno Dario e buongiorno Miriam. Dove siete stati? Buongiorno a tutti, salutiamo Radio 24, salutiamo la brava Lattella, ma soprattutto in questo momento siamo a Chioggia perché stiamo girando l'ultima puntata, che è iniziata ad andare in onda tutto, e siamo a Chioggia, che è meravigliosa, straordinaria, è come una specie di Venezia senza i turisti un po' invasivi, quindi è una specie di Venezia omeopatica, e stiamo girando una specie di battaglia con pistole ad acqua, con, diciamo, l'ilarità e la sorpresa dei presenti. Poi Miriam si imbarcherà. Miriam, dov'è che vai dopo? Dove vado? Non lo so, dove andrò, Dario? Mistero. Su Pellestrina, sull'isola, no? Pellestrina, ah, sì, vai a fare, non sa niente. Scusate, mi dovete perdonare, ma è che in questa battaglia d'acqua Dario mi ha veramente devastata, e quindi non riesco a intendere volere in questo momento. Pensa questo, pensa che sono sbastato un po' d'acqua, pensa come sono le giovani ragazze, queste giovani attrici. No, proprio ha fatto un giro d'Italia molto bello, ci siamo divertiti, abbiamo scoperto che veramente l'Italia ha questa roba qua, ha questa bellezza, dove passando con questa cosa di Autostrade per l'Italia, questa idea che uno vede questi cartelloni e se ha un'ora in più, per esempio, invece che perderla così nella vaghezza, può uscire e vedere dei borghi straordinari, e questa è l'idea, insomma. Quest'estate gli italiani hanno scoperto molto, perché con il suggerimento di restare in Italia, misura di buonsenso oltre che di precauzione, molti sono rimasti nel nostro paese e hanno scoperto che siamo in un paese meraviglioso. Ce lo diciamo sempre, ma poi vederlo è un'altra cosa. Quali sono le curiosità più divertenti che avete scovato in questo giro per l'Italia? Beh, guarda, ne abbiamo scoperte tantissime. A me ha molto colpito il fatto che in Puglia, a Margherita di Savoia, ci sono le saline più grandi d'Europa e le seconde più grandi al mondo. Il terrore degli ipertesi. Sì, cioè montagne di sale. Il terrore, esatto, anche di chi ha la cellulite, perché ti dicono sempre mangia senza sale se vuoi evitare. E beh, tu non ce l'hai la cellulite, è un problema femminile. Ma lasciamo una parte femminile in me. Perché Dario in realtà è un grande sportivo, corre, quindi lui non ha nessun problema. Ma non è vero, assolutamente. E come mi è rincorso come un pazzo adesso? No, però bisogna anche ricordare che questo filo rosso che lega un po' tutte le puntate in giro per l'Italia, quindi abbiamo fatto da Polignano, che è già bello di per sé, si sa, però con la scusa quest'anno di andare a cercare dei record, siamo andati a vedere, non so, il vulcano più piccolo del mondo, che è una cosa straordinaria. Cioè, c'è una roba di gas con questa fiammetta di 50 centimetri sull'Appennino. Qui a Chioggia c'è l'orologio da torre più antico del mondo. Detto questo, c'è anche il vicolo più stretto d'Italia, cioè con la scusa di andare a cercare dei record, è un modo, diciamo, un pretesto per rigirare l'Italia. Io lo sto facendo già da 5 anni, quindi insomma giriamo, però devo dire la verità, ogni volta siamo sorpresi da queste piccole dalla cose bellezza, che poi sinceramente sono quello che la gente vuole vedere, vuole scoprire, vuole trovare. Io ribadisco sempre questo concetto delle Cinque Terre, che vivendo lì, fortunato che sono, cioè ci siamo resi conto che il fatto che nessuno ha toccato niente gli ha dato la bellezza che c'è. Cioè bisognerebbe a volte non fare più di quello che bisognerebbe fare, insomma. A Viterbo avete trovato, so, la calza più lunga del mondo. Che cos'è la calza più lunga del mondo? Sì, questo è un altro primato del nostro paese. Loro in pratica durante il periodo dell'Epifania cuciscono questa calza che è la più lunga del mondo e la trasportano con 500 Fiat, 500 tra l'altro, quindi 500 di numero e 500 di fatto, e la trasportano per tutto il paese con un corteo di donne vestite da Befana che l'accompagnano. Viva casa, diciamo. È una cosa, come dire, molto poco politically correct, perché si dovrebbe eventualmente richiedere una parità di genere, quindi metà maschi anche vestiti da Befane, ma va bene così, va bene così. Questa è una trasmissione che parla di donne, di lavoro ormai questo è il sesto anno. Una domanda a voi che lavorate nel mondo dello spettacolo, con il Covid e con tutte le problematiche adesso collegato, com'è oggi lavorare per la TV, girare come state facendo per l'Italia? Ci sono precauzioni particolari? Le vostre troupe sono costrette a girare, insomma, con le mascherine? Come funziona il lavoro oggi? È una cosa contrattuale e sono molto attenti, e soprattutto io sono ipocondriaco con l'ansia, cioè mio padre anziano, cioè figlioli, sono nonno, sono binonno, quindi c'è un po' l'ansia mia, oltre ad essere ipocondriaco di turno. Quindi io credo di aver già fatto tipo 5-6 test, quelli del sangue, un tampone ieri l'altro, non sto scherzando, e anche una roba sul dito che è arrivato un medico a farcela. Quindi con la mascherina la troupe si muove con la mascherina, noi perché siamo in macchina, io e lei e un regista, abbiamo il test fatti sempre apposta perché ci tediamo e tuteliamo gli altri, che poi è un po' l'idea. Mentre la prima che abbiamo girato, che era verso la Puglia, diciamo, io mi sono reso conto che rispetto a quello che abbiamo passato noi nel nord, tra virgolette, giù erano molto più, non sentivano, diciamo, questa drammaticità della cosa. Arriva l'estate e i ricci e il mare, diciamo, fanno da così, anestetizzano un po', sì, ecco, diciamo, rilassano, così. Rilassano notevolmente. Miriam, ma com'è lavorare con un collega come Dario Vergassola? Ti fai un sacco di risate o invece durante i viaggi come dire, state zitti e recuperate energie? Da Dario non parla mai, è sempre serio. No, non è vero, è troppo divertente lavorare con Dario, cioè non sembra di lavorare fondamentalmente. Poi abbiamo un regista molto bravo, Luca Granato, che è molto divertente anche lui, riesce sempre a cogliere i momenti più divertenti. E poi comunque abbiamo Autostrade per l'Italia che ci sostiene, che ha avuto l'idea di questo progetto, e quindi insomma è bello poter viaggiare per le nostre strade. Ragazzi, non sapete quanto siete fortunati, perché il contesto di lavoro che consente anche ogni tanto un sorriso, secondo me fa bene, previene l'infarto, fa di tutto, quindi beati voi e lo dico anche a chi ci ascolta, se in questo momento siete tornati al lavoro e viaggi non se ne prevedono, viaggiate insieme a Miriam Galanti e Dario Vergassola con Sei in un paese meraviglioso su Sky Arte. Buona domenica, ciao Dario, ciao Miriam. Grazie a te, ciao. Grazie a tutti. Buona domenica, ciao. Viva! Nessuna è perfetta. Eccoci, ultima parte di Nessuna è perfetta e come vi dicevo, riflettore acceso sulle imprese guidate da donne, vi ho dato un po' la fotografia di quello che è successo negli ultimi mesi. Vi dicevo che mentre c'è stato un aumento di imprese guidate al femminile prima del Covid, poi invece in quei mesi di nuove imprese guidate da donne ce ne sono state di meno, addirittura meno 10.000 rispetto al 2019. E noi abbiamo oggi qui a Nessuna è perfetta e la saluto Marilisa Allegrini, che con il fratello Franco è alla guida della storica azienda di famiglia. Quest'anno è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella ed è anche stata una delle protagoniste del premio che la Fondazione Bellisario, guidata da Lella Golfo, attribuisce alle imprenditrici ogni anno in collaborazione con Intesa San Paolo. Buona domenica Marilisa. Grazie Maria e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto voglio dire che il titolo Nessuna è perfetta è bellissimo, perché ci fa capire che c'è sempre un margine di miglioramento nella vita e noi come donne ci crediamo moltissimo perché sappiamo metterci in discussione. Eppure troppo certe volte, no? Certe volte aspiriamo alla perfezione, invece bisogna prenderci anche come siamo, no? Con i nostri limiti, migliorare ma senza l'ansia o l'ossessione di essere perfetta. Io le voglio chiedere, Marilisa, intanto se ci riassume brevemente com'è che è diventata imprenditrice, perché spesso c'è una storia familiare, nel suo caso c'era un papà, c'è un papà che l'ha aiutata a svolgere questo ruolo insieme a suo fratello. Che cosa l'ha convinta a dire sì, mi butto? Ma diciamo è stato l'amore per l'attività che svolta dalla famiglia, ma anche questo concetto di legacy, no? Questo concetto che va al di là di un'eredità che una persona riceve dai suoi antenati. Perché mio padre, che è stato il mio mentore, mi ha inculcato un senso di impegno e di dovere, ma anche amore per la natura, rispetto per la terra e valorizzazione del territorio, e come non ci si può innamorare di questo insieme di cose così bello e così di spessore e di valore. Ecco, quindi è stato portare avanti quello che mio padre, ma anche i suoi antenati avevano fatto, e l'ho fatto con entusiasmo, ed un entusiasmo che sento ancora dentro di me nonostante siano ormai 40 anni che faccio questo lavoro. Senta Marilisa, voi siete insediati in quale territorio? Allora, l'azienda è in Valpolicella, quindi in provincia di Verona, e questa è l'azienda storica. Però nel 2001 io sono andata anche fuori dalla mia comfort zone e abbiamo investito a Bolgheri in Toscana e poi a Montalcino, quindi diciamo che le nostre due zone sono la Valpolicella e le altre due che si trovano in Toscana, e quindi tre delle zone più belle della produzione viticola italiana. Si dice sempre che le donne e le imprenditrici devono essere più resilienti ancora degli uomini, far fronte per esempio a una certa diffidenza che nel mondo del business, degli affari resiste. non è il suo caso, perché appunto lei ha un'azienda di famiglia, ma le imprenditrici piccoline, per esempio, fanno fatica spesso a farsi dare credito, fanno più fatica. Le chiedo, in 40 anni di esperienza da imprenditrice, lei si è mai detta sto facendo più fatica di quanto non abbia fatto mio padre prima o di quanto non faccia mio fratello perché loro sono uomini? Ma io credo che alla donna viene richiesto più impegno, questo è un dato inconfutabile. Però penso anche che abbiamo dentro di noi le energie, le capacità e soprattutto la determinazione che, unita appunto a questo impegno, riesce a farci superare questa naturale diffidenza che credo ci fosse molto più in passato, anche se non è ancora completamente sconfitta. Una donna è sempre un bersaglio più facile rispetto ad un uomo. Però insomma dobbiamo anche passare oltre e dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri valori. Senta Marilisa, lei come ha vissuto questo periodo di lockdown, che se da un lato ha visto crescere magari il consumo di vino per uso familiare, domestico, perché magari c'era bisogno di tirarsi su con un bicchiere, dall'altro ha visto azzerato il consumo nei ristoranti, nei locali pubblici, perché erano chiusi. Quindi che bilancio fa di questi mesi di lockdown per la sua azienda e in generale per il settore? Ma allora, sicuramente è una crisi epocale e spero che attraverso la scienza dia gli strumenti per poterne uscire. Aziendalmente parlando, siccome lavoriamo con la natura, con la terra non ha aspettato e quindi abbiamo dovuto continuare a lavorare. E i mercati esteri hanno reagito abbastanza bene e l'Italia ha avuto qualche sofferenza in più proprio perché la nostra produzione va principalmente all'Horeca. Però guardandola nella dimensione più ampia, secondo me è chiaro che il coronavirus ci ha costretto e ci costringerà a un riesame delle nostre priorità economiche. Ha importanza capire la sua origine, ha importanza capire come si è configurato rapidamente e come sia una minaccia a carattere globale. Quindi io credo che l'umanità intera deve porsi in modo propositivo, perché dobbiamo uscire da questa crisi pandemica che altrimenti rischia... Senta Marilisa, per esempio le vostre esportazioni si sono fermate, hanno mantenuto invece lo stesso trend? Penso, che ne so, alla Cina, che sembrava molto interessata ai vini italiani, non so se è un vostro mercato, ma che è successo dopo Wuhan con le esportazioni di vino in quel paese? Diciamo che non possiamo definire i mercati esteri alla stessa maniera, perché è tutto macchia di leopardo. Ci sono dei paesi che hanno reagito molto bene, dove c'è principalmente retail, come per esempio i paesi scandinavi, come per noi alcuni paesi asiatici, Giappone, Thailandia, eccetera. La Cina, secondo me, si è bloccata completamente, però adesso è anche una delle prime che dà segni di risveglio. E poi ovviamente quando avevamo una presenza forte nell'Horeca oppure nella croceristica, perché noi abbiamo anche una presenza consistente in paesi che, come gli Stati Uniti, dove c'è una croceristica importante, lì ci sono state delle flessioni. Diciamo che il calo del fatturato estero non è significativo e io credo che ci sarà anche una buona ripresa. Però insomma appunto c'è questa macchia di leopardo, come vorrei definirla. Allora, in bocca al lupo per la stagione, ma a proposito, è una buona stagione questa per la raccolta? È ancora sarà un buon anno per dirlo, perché siamo riusciti a portare a casa delle uve buone, però bisogna vedere come vanno avanti le fermentazioni e bisogna vedere come va. Però le prospettive ci sono perché sia una buona annata. un'annata che compensa. Speriamo un che po'. Sia. Questa situazione difficile che stiamo vivendo. Prendiamolo come un buon auspicio per i mesi che verranno. Grazie Marilisa Allegrini, grazie alla nostra Gaia Romani in redazione e ad Alessandro Chiappini in regia. La lascio salutare i nostri ascoltatori, Marilisa. Grazie a tutti e uno stimolo sempre per le donne a tirare fuori tutto quello che hanno dentro e pensare positivo, perché mai come ora ne abbiamo bisogno. È quello che cerchiamo di fare praticamente da 6 anni ogni domenica qui. Grazie a tutti, noi ci sentiamo domenica prossima, vi aspetto alle 10 col caffè della domenica, torneremo ad avere un ospite politico e poi come sempre le nostre amiche, i nostri Sunday Girl e tutti coloro che da 6 anni popolano la nostra Nessuna è Perfetta. Ciao! Puoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.